ma c'è un raduno molto importante di tantissime persone. Sarebbero in prima, cioè in prima, diciamo, la parte più importante sono i parenti dei dispersi lungo le coste italiane, che è una storia che la stiamo seguendo come giornalisti da oltre un anno, e quindi ha delle meraviglie, solo che non si parlava mai da nessuna parte. Qua ci sono delle prove, dei video, non uno, non dieci, ma sono tantissimi, prese non soltanto amatoriali, ma anche dal TG5, da Euronews, che mostravano questi ragazzi che sono arrivati sulla terra italiana e quindi sono stati accompagnati sia dalla Croce Rossa che dalla polizia in degli autobus, sono stati portati al punto di interrogazione che si pone oggi, dove sono stati portati questi ragazzi. Si sono presi un lì e potevano andare, perché non sono in galera, e quindi possono mandare sms, possono telefonare, ma nessuno ha chiamato verso casa. E qua stiamo parlando di un numero molto importante, molto elevato, sono intorno alle 800 persone disperse, che non ci sono né salme, e soprattutto questi qua che sono qui hanno delle prove che i loro figli sono arrivati. La grande preoccupazione quando si viaggia sulla carretta della morte è quella di annegarsi. Questi non sono annegati, quindi sono arrivati, ma il problema è dove sono finiti, dove li ha portati la polizia. Questo è il problema principale, ecco. Quindi sono 800 persone di cui non si sa più nulla, praticamente. No, assolutamente. Ci sono, i parenti sono stati a Lampedusa, perché insomma per farli accontentare hanno scelto una commissione praticamente tra i parenti, e sono stati a verificare. Chissà, ma c'è del vero sia Lampedusa che a Pantelleria. Però insomma c'è qua un altro punto di interrogazione che bisogna anche lavorarci tanto su questo. Il governo cino, con la pressione di questi familiari, ha potuto mandare in Italia familiari e in più oltre 200 impronte. Queste impronte alla fine è scoperto che sono del 98, non delle persone che sono partite due anni fa, dopo la rivoluzione in Tunisina. E quindi questo è il problema. Il problema è che quanto è andato di qua, il Beji Caid, che sarebbe il presidente del Consiglio che ha preso il comando, il governo, come nel periodo della transizione, è andato, ha incontrato Berlusconi, hanno fatto degli accordi. Gli accordi sono strani, pensa che non riuscivamo a trovare nessun accordo su internet, neanche presso da nessuna parte in Italia, dove c'è una frase molto ambigua, che l'accordo prevede che questi ragazzi qua non tornano in Tunisia, cioè non tornano sì, ma in che modo? Cioè, praticamente dove lo devono portare? Li devono portare in galera, li devono portare presso le CIE, e in più questo è il problema di fondo secondo noi qua, è che questi ragazzi sono stati visti, ci sono le registrazioni, noi come giornalisti abbiamo tutto il documento e abbiamo bisogno di farlo vedere lì in Italia. Intanto la manifestazione sta proseguendo, le persone qua sono arrabbiatissime, stanno cercando di sfondare la porta perché vogliono l'ambasciatore, ma non voleva saperne. L'ambasciatore sicuramente è qua. Stiamo cercando di costruire una delegazione qua, tra i parenti e noi come giornalisti in Tunisia, e collaboriamo con giornali italiani, e quindi stiamo aspettando di incontrarlo, ma fino adesso sembra impossibile. C'è tanto disordine, le mamme che stanno piangendo, chiamano l'Italia dei diritti umani, chiamano l'Italia dei diritti civili, ma queste persone sembra che non abbiano voce, che nessuno li stia ascoltando, ecco. Senti, voi avete preparato delle azioni, delle denunce per quanto riguarda sia il governo italiano sia il governo tunisino, oppure no? Come vi siete mossi da questo punto di vista? A dire il vero noi stiamo collaborando con la signora Mnawar Mariam, no? Che è la presidente del partito tunisino, si chiama proprio così. che lei insomma va avanti e indietro Italia-Tunisia appunto per questo problema. Lei ha avuto la conferma di un'erogazione di giudice che farà indagini in questo riguardo, anche perché lei ha fatto la denuncia contro Berlusconi. E gli atti ce li abbiamo, siamo in possesso anche di questi atti. Ha denunciato anche il vecchio presidente del Consiglio tunisino, sarebbe colui che ha fatto l'accordo con Berlusconi, che è un accordo ambiguo dove non c'è traccia a quel che è stato detto. Apparentemente il ministro Marroni ha parlato nel riguardo, ha detto delle cose che sono su internet, che ci sarebbero dei permessi temporanei di 6 mesi per questi ragazzi qua, però il problema è che non quelli che sono stati in qualche modo regolarizzati e fatti sparsi per l'Europa, Francia, Germania, ma soprattutto di questi ragazzi qua che noi abbiamo prove di oltre 300 persone visti, per dire, no? Se vedi una persona che è arrivata al 12, solo una persona in un video, vale a dire che è arrivato tutta la barca, no? Se vedi un'altra persona che è partita il giorno 19, per dire, vuol dire che una barca, la barca conteneva 100 persone minimo, e quindi noi stiamo parlando qua a oltre 300 persone, siamo a quote 400-500 persone, non si sa. Adesso il problema di fondo è che questi parenti hanno il santo diritto di avere delle risposte. Risposte concrete non ce ne sono, stanno facendo la loro battaglia senza nessun sostegno, e quindi speriamo che grazie a voi faremo arrivare questa voce qua che ha cuore, che insomma un po' di umanità c'ha, perché veramente la cosa è disastrosa qua. Vedo delle cose, le mamme sono svenute, piangevano. È una cosa veramente orrenda, cioè, mi dispiace dirlo, però è così purtroppo, ecco. Noi faremo il possibile, Sader. Senti, l'ultima cosa, poi magari ci riaggiorniamo nel pomeriggio. Che aria si respira a Tunisi nella piazza di stamattina? Ti facciamo questa domanda perché da un po' di tempo la Tunisia è uscita fuori dai giornali italiani, non se ne parla più, non si sa più quello che accade. Ecco, che aria si respira, appunto. Ok, nel complesso la Tunisia insomma sta uscendo, come dire, scusami, noi abbiamo un detto qua molto importante, lo dico, cerco di fare la traduzione, cioè, come dire, stiamo uscendo dal collo della bottiglia, no? Sì. Nel senso che ci sono, si può parlare adesso, si può manifestare, si può dire di no, questo è bello perché abbiamo la possibilità di dire tutto quello che vogliamo, non è come invece prima, cioè, sicuramente noi siamo in un cambiamento democratico, cioè, è caduto il dittatore sì, però tutto da costruire da capo, la costruzione si sa è molto più importante e occorre tempo e denaro per costruire, piuttosto perché buttare giù è più facile, e quindi nel complesso la Tunisia, dico che si sta andando bene a livello di libertà di espressione, solo che stiamo, sapete che abbiamo l'assemblea costituzionale che sta lavorando per costruire di nuovo la costituzione tunisina, purtroppo se non c'è una costituzione non ci sono le leggi, quindi le leggi sono quelle vecchie, dove magari quando si va a protestare davanti all'ambasciata americana per dire di no a una certa idea, a un certo comportamento, possiamo essere condannati con la legge del terrorismo, per dire. Quindi ecco, una democrazia fatta su un corno di un diavolo, scusami l'espressione. Quindi qua invece l'aria veramente insomma inizia a toccare qualsiasi persona che abbia un po' di umanità nel cuore, insomma ci sono intorno alle 1000 persone davanti all'ambasciata italiana, proprio nel cuore di Tunisi, continuo ad urlare, io sono qua da 500 metri, però se arriva ancora la voce, potete immaginare, sono delle mamme e quindi che vedevano le loro figli in diverse documentazioni su internet amatorialmente, sia con telegiornali, sia Euronews, TG5, sono stati visti non sono notizie geopolitica. Personalmente ho scritto, ho pubblicato qualcosa nel riguardo, anche con le foto, potete anche constatare questo. Il problema si sente, però noi abbiamo chiamato la vostra attenzione oggi perché non possiamo fare nulla senza il vostro aiuto, sinceramente. Noi vogliamo col cuore aiutare queste persone qua, però se qua dalla Tunisia possiamo manifestare, urlare, però se non c'è nessuno che ci ascolta in Italia, come dire, buttare un secchio d'acqua nella sabbia aspettando di raccogliere acqua, ecco.